Rosamond rimase muta per qualche secondo, guardando davanti a sé, e poi disse: Mio zio Balstro dovrebbe concederti uno stipendio per il tempo che dedichi all'ospedale. Non è giusto che lavori per niente. Fin dall'inizio l'accordo era che le mie prestazioni sarebbero state gratuite. Anche questo non deve essere oggetto di una discussione fra di noi. Ho indicato qual è l'unica possibilità, disse Lydgate con impazienza. Poi frenandosi proseguì in tono più pacato. Penso di intravedere un espediente che ci libererebbe da gran parte delle attuali difficoltà. Ho sentito dire che il giovane Ned Plymdale sta per sposarsi con Miss Sophie Toller. Sono gente ricca e non succede spesso a Middlemarch che si renda disponibile una bella casa. Sono certo che sarebbero lieti di prendere da noi questa casa con la maggior parte dei mobili e sarebbero disposti a pagare una bella somma per l'affitto. Posso mandare Trumbull a parlare a Plymdale? Rosamond si alzò dalle ginocchia del marito e a lenti passi giunse fino all'altra estremità della stanza. Quando si voltò e gli andò incontro, era palese che le erano spuntate le lacrime. Si mordeva il labbro inferiore e si stringeva le mani per trattenere il pianto. Lydgate era infelice, scosso dall'ira, eppure consapevole che sarebbe stato indegno di un uomo dare sfogo a quell'ira proprio adesso. Sono molto spiacente, Rosamond, e so che questo è un dolore. Io pensavo perlomeno che quando avevo sopportato di rimandare indietro l'argenteria e lasciar fare l'inventario dei mobili a quell'uomo, avrei pensato che quello sarebbe bastato. Te l'ho spiegato allora, cara. Quella era solo una garanzia, e dietro quella garanzia c'è un debito. E quel debito dobbiamo pagarlo entro i prossimi mesi, altrimenti ci venderanno i mobili. Se il giovane Plymdale acconsente a prendere la nostra casa e la maggior parte dei mobili, saremo in grado di pagare quel debito e anche altri, e ci saremo liberati di una casa troppo costosa per le nostre possibilità. Potremmo prendere una casa più piccola. So che Tremble ne ha una assai decorosa da affittare a 30 sterline l'anno e questa ne costa 90. Lydgate pronunciò questo discorso nel modo brusco e martellante con cui cerchiamo di solito di costringere una mente indecisa a comprendere dei fatti ineludibili. Le lacrime scorrevano silenziosamente sulle guance di Rosamond. Lei si limitava a premere contro di esse il fazzoletto e restava a guardare il grande vaso sulla mensola del caminetto. Fu un momento di amarezza più intenso di quanto avesse mai provato prima. Infine disse senza fretta e con enfasi studiata: Non avrei mai creduto che ti sarebbe piaciuto comportarti in questo modo. Piaciuto? Sbottò Lydgate alzandosi dalla poltrona, ficcandosi le mani in tasca e allontanandosi a lunghi passi dal focolare. Non è questione di piacere. Naturale che non mi piaccia, ma è l'unica cosa che possa fare. A questo punto si girò e si voltò verso di lei. Avrei pensato che ci fossero molte strade diverse da quella, disse Rosamond. Facciamo una vendita e lasciamo del tutto Middlemarch. Per fare cosa? A che serve che io lasci il mio lavoro a Middlemarch e vada dove non ne ho? Saremo al verde da un'altra parte, come lo siamo qui, disse Lydgate con aria ancora più adirata. Se ci troveremo in questa situazione, sarà perché l'avrai voluto tu, Tertius, disse Rosamond, voltandosi per parlare con la convinzione più piena. Non ti vuoi comportare come dovresti con i tuoi. Hai offeso il capitano Lydgate. Sir Godwin è stato molto gentile con me quando siamo stati a Qualingham e io sono sicura che se dimostrassi il dovuto riguardo nei suoi confronti e lo mettessi al corrente delle tue faccende, farebbe qualsiasi cosa per te. Ma piuttosto che fare questo, preferisci cedere la nostra casa e i mobili a Mr. Ned Plymdale. C'era un che di simile alla ferocia negli occhi di Lydgate mentre ribatteva con rinnovata violenza. Bene, allora, se vuoi che sia così, sì, mi piace. Ammetto che mi piace di più che farmi ridere dietro andando a elemosinare dove è inutile. Allora hai capito? Questo è ciò che mi piace fare. L'ultima frase aveva un'intonazione che equivaleva alla stretta della sua mano forte sul braccio delicato di Rosamond. Ma nonostante tutto questo, la volontà di Lydgate non era minimamente più forte di quella di lei. Lei uscì immediatamente dalla stanza senza dire parola, ma profondamente decisa a impedire ciò che Lydgate piaceva fare. Egli uscì di casa, ma quando l'ira gli fu sbollita, si rese conto che il risultato principale della discussione era l'accumularsi in lui di un timore all'idea di aprirsi con la moglie in futuro su argomenti che avrebbero potuto nuovamente indurla a parlare con violenza. Era come se una frattura avesse cominciato ad aprirsi in un cristallo delicato ed egli aveva paura di qualsiasi movimento che potesse renderla rovinosa. Il suo matrimonio sarebbe divenuto un semplice esempio di amara ironia se non potevano continuare ad amarsi. Già da tempo aveva aperto gli occhi su quello che egli considerava il lato negativo del carattere di lei, la sua mancanza di sensibilità, che si mostrava nel non curarsi sia dei suoi specifici desideri che dei suoi scopi generali. Aveva subito la prima grande delusione. Avrebbe dovuto fare a meno della tenera devozione, della docile adorazione della moglie ideale e avrebbe dovuto prendere la vita a un livello di speranze più basso, come fanno coloro che hanno perso gli arti. Ma la moglie reale non aveva solo le sue esigenze, aveva ancora una presa sul suo cuore ed egli nutriva l'intenso desiderio che quella presa restasse forte. Nel matrimonio la certezza "lei non mi amerà più molto" è più facile da sopportare il timore "io non l'amerò più". Per questo, dopo quello scoppio d'ira, ogni suo sforzo interiore fu di scusarla completamente e di riversare il biasimo sulla dura situazione economica di cui egli era in parte responsabile. Quella sera, coccolandola, cercò di guarire la ferita che le aveva inferto al mattino e non era del carattere di Rosamond fare la scontrosa o essere immusonita. In effetti, lei accettava con piacere i segni che il marito l'amava ed era ancora sotto il suo controllo. Ma questo era qualcosa di ben diverso dall'amarlo. Lydgate non avrebbe deciso entro breve tempo di mettere in esecuzione il piano di lasciare la casa, era risoluto a ricorrervi e a parlarne ancora il meno possibile. Ma Rosamond stessa vi alluse a colazione dicendo con aria mite: "Hai già parlato a Tremble?" "No", disse Lydgate, "ma lo andrò a trovare mentre passo questa mattina. Non bisogna perdere tempo." Interpretò la domanda di Rosamond come un segno che lei ritirava la sua posizione morale. Le baciò il capo con amorevolezza quando si alzò per andarsene. Appena fu un'ora abbastanza avanzata per fare una visita, Rosamond si recò da Mrs. Plimdale, la madre di Mr. Ned, e con amabili congratulazioni introdusse l'argomento del prossimo matrimonio. L'idea di Mrs. Plimdale come madre fu che Rosamond ora forse si pentiva retrospettivamente della propria follia e avvertendo che i vantaggi erano al momento tutti dalla parte del proprio figlio, era una donna troppo generosa per non comportarsi con gentilezza. Sì, Ned è felicissimo, devo dire. E Sophie Toller è tutto quello che avrei potuto desiderare per nuora. Naturalmente il padre di lei è in grado di darle più di una mano. Non ci si poteva aspettare altro con una birreria come la sua. E i familiari sono tutto quello che avremmo potuto desiderare. Ma non è questo che mi interessa. Lei è una ragazza molto carina, nessun'aria, nessuna pretesa. Anche se allo stesso livello della gente migliore. Non voglio dire dell'aristocrazia titolata. Assai poca simpatia per quelli che guardano più in alto del loro ceto. Voglio dire che Sophie è pari alle migliori delle città e lei si accontenta di questo. L'ho sempre considerata assai gradevole, disse Rosamond. Lo considero una ricompensa per Ned, che non ha mai alzato troppo la testa. Il fatto che abbia stretto dei legami con la migliore delle famiglie, continuò Mrs. Prinday con la naturale asprezza addolcita dalla fervida sensazione di assumere l'opinione corretta. E gente schizzinosa come i Toller avrebbero potuto trovare da ridire perché alcuni dei nostri amici non sono di loro gradimento. È ben noto che vostro zio Balstrow e io siamo amici intimi fin dalla giovinezza e Mr. Plimdale è sempre stato dalla parte di Balstrow e anche io preferisco le opinioni serie. Ma i Toller hanno ugualmente accettato Ned con calore. Sono certa che è un giovanotto assai meritevole, di sani principi, disse Rosamond con distinta aria di superiorità per ricambiare i sani rimproveri di Mrs. Plimdale. Oh, lui non ha lo stile di un capitano dell'esercito, o quella specie di portamento come se tutti gli fossero inferiori, o quel genere esibizionista di parlare, di cantare, di avere un talento intellettuale. Ma ringrazio il cielo che non sia così. È una misera preparazione per questo mondo e per l'altro. Oddio, sì. Le apparenze hanno molto poco a che fare con la felicità, disse Rosamond. Penso che ci siano tutte le premesse perché siano una coppia felice. Che casa prenderanno? Oh, quanto a quello, dovranno accontentarsi di quello che riusciranno a trovare. Sono andati a vedere una casa a St. Peter's Place, vicino alla casa di Akbat. è la sua e la sta facendo riparare bene. Penso che non sia probabile che vengano a sapere di un posto migliore. In effetti credo che Ned prenderà oggi una decisione in proposito. Direi che è una bella casa. Mi piace St. Peter's Place. Beh, è vicino alla chiesa, è una zona elegante, ma le finestre sono strette ed è tutta salite e discese. Per caso non sapete di qualsiasi casa che sia libera? Chiese Mrs. Plaindale fissando i rotondi occhi neri su Rosamond, animati da un improvviso pensiero. Oh no, sento parlare così poco di queste cose. Rosamond non aveva previsto quella domanda e la risposta nell'accingersi a farle visita. La sua intenzione era stata semplicemente quella di raccogliere qualsiasi informazione che le desse la possibilità di scongiurare un trasloco della propria casa in circostanze così spiacevoli per lei. Quanto all'insincerità della sua risposta, non riflette su di essa più di quanto non riflettesse sull'insincerità della sua affermazione che le apparenze avevano ben poco a che fare con la felicità. Il suo scopo, così era convinta, era del tutto giustificabile. Era l'intenzione di Lydgate che non aveva scusanti e in mente aveva un piano che, una volta messo pienamente in esecuzione, avrebbe dimostrato quale passo falso da parte di lui sarebbe stato abbassare il livello della sua posizione. Tornò a casa, passando dall'ufficio di Mr. Borthrop Tremble, con l'intenzione di fermarsi lì. Era la prima volta in vita sua che Rosamond pensava di fare alcunché in tema di affari, ma si sentiva all'altezza della situazione. Il dover essere obbligata a fare ciò che detestava intensamente era un'idea che trasformò la sua tranquilla tenacia in un'energica capacità inventiva. Ecco un caso in cui non sarebbe stato sufficiente soltanto disobbedire e incaponirsi serenamente e placidamente. Doveva agire secondo il proprio modo di sentire e si disse che il suo modo di sentire era giusto. In effetti, se non lo fosse stato, lei non avrebbe voluto comportarsi conformemente ad esso. Mr. Tremble era nella saletta del retro dell'ufficio ed accolse Rosamond con i modi più raffinati, non solo perché era molto sensibile al suo fascino, ma perché la sua natura benevola era agitata dalla certezza che Lydgate si trovava in difficoltà e che questa donna insolitamente carina, questa giovane signora di grandissime attrattive personali, probabilmente sentiva l'angustia di trovarsi nei guai, di trovarsi coinvolta in condizioni che non era in grado di controllare. La pregò di fargli l'onore di sedersi e restò in piedi davanti a lei, rassettandosi e comportandosi con ansiosa sollecitudine, che era soprattutto benevolenza. La prima domanda di Rosamond fu se il marito era passato da Mr. Tremble quel mattino per parlargli di dare via la casa. Sì, signora, sì, l'ha fatto, disse il buon banditore cercando di mettere un qualche lenitivo nella sua interazione. Avrei eseguito il suo ordine questo pomeriggio, se possibile. Voleva che non rimandassi la cosa. Sono passata per dirvi di lasciar perdere Mr. Tremble e vi chiedo di non far parola di ciò che si è detto sull'argomento. Volete farmi questo favore? Certamente, Mrs. Lydgate, certamente. La segretezza negli affari o in qualsiasi altro ramo per me è sacra. Devo allora considerare cancellata la commissione, chiese Mr. Tremble, aggiustandosi le lunghe estremità del cravattone blu con entrambe le mani e guardando Rosamond con deferenza. Sì, se volete essere così gentile. Ho scoperto che Mr. Ned Plymdale ha preso una casa, quella in St. Peter's Place, accanto a quella di Mr. Hackbutt. Mr. Lydgate si riterebbe se i suoi ordini venissero eseguiti senza un nulla di fatto. A parte questo, ci sono altre circostanze che rendono inutile la proposta. Molto bene, Mrs. Lydgate, molto bene. Io resto ai vostri ordini, ogni qualvolta abbiate bisogno di qualsiasi servizio da me, disse Mr. Tremble, il quale provava piacere nel sospettare che si fossero prospettate nuove scappatoie. Fidatevi di me, vi prego. La cosa non avrà alcun seguito. Quella sera Lydgate si sentì un po' confortato nell'osservare che Rosamond era più vivace di quanto lo fosse stata negli ultimi tempi e sembrava persino interessata a fare ciò che egli gradiva senza che ci fosse bisogno di chiederglielo. Pensò: se lei è felice e io riesco a farcela, che importanza ha il resto? È solo uno stretto tratto di palude che dobbiamo attraversare in un lungo viaggio. Se riesco di nuovo a sgombrarmi la mente, ce la farò. Fu talmente rallegrato che cominciò a cercare un resoconto di esperimenti a cui aveva avuto intenzione tanto tempo prima di dare un'occhiata e che aveva ignorato per quel senso strisciante di sfiducia in sé che è lo strascico delle piccole ansie. Sentì ancora un po' del delizioso interesse di un tempo per un'indagine di vasta portata, mentre Rosamond suonava la dolce musica che era di aiuto alla sua meditazione con lo sciabordio di un remo sul lago alla sera. Era piuttosto tardi, aveva spinto via tutti i libri e guardava il fuoco con le mani intrecciate dietro il capo, dimentico di ogni cosa tranne l'ideazione di un nuovo esperimento di verifica. Quando Rosamond, che aveva lasciato il piano ed era appoggiata allo schienale della poltrona, intenta ad osservarlo, disse: Mr. Ned Plimdale ha già preso una casa. Lydgate, stupito e irritato, alzò gli occhi in silenzio per un momento, come uno che sia stato disturbato nel sonno. Poi, col rossore di una sgradevole notizia, chiese: Come lo sai? Sono passata da Mrs. Plimdale questa mattina e mi ha detto che aveva preso la casa St. Peter's Place accanto a quella di Mr. Egbert. Lydgate rimase muto. Si tolse le mani da dietro il capo e le premette contro i capelli che gli scendevano, come era sua abitudine, in una massa sulla fronte, mentre teneva il gomito appoggiato alle ginocchia. Provava un amaro disappunto, come se avesse aperto una porta per uscire da un luogo soffocante e l'avesse trovata murata. Ma aveva anche la certezza che Rosamond provava piacere per la causa del suo disappunto. Preferì non guardarla e non parlare, finché non ebbe superato il primo accesso di irritazione. Dopotutto, si disse in preda all'amarezza, cosa può importare di più a una donna di una casa e dei mobili? Senza di essi un marito è un'assurdità. Quando alzò gli occhi e spinse di lato la poltrona, nei suoi occhi scuri c'era un triste vuoto di rinuncia ad essere commiserato, ma si limitò a dire freddamente: Può darsi che si faccia vivo qualcun altro. Ho detto a Tremble di tenere gli occhi aperti nel caso non gli fosse andata con Plimdale. Rosamond non fece alcuna osservazione. Confidava che il marito e il banditore non si sarebbero incontrati più fino a quando una qualche soluzione avrebbe giustificato l'interferenza di lei. Ad ogni modo, aveva evitato che succedesse ciò di cui aveva immediatamente paura. Dopo un attimo di silenzio, disse: Quant'è la somma che vogliono quelle persone antipatiche? Quali persone antipatiche? Quelle che hanno fatto l'inventario e le altre? Voglio dire, quanti soldi ci vorrebbero per soddisfarli così che tu non debba più preoccuparti? Lydgate la esaminò per un momento, come se stesse cercando dei sintomi, e poi disse: Se avessi potuto ottenere 600 sterline da Plimdale per i mobili e come buona uscita, avrei potuto cavarmela. Avrei potuto saldare Dover e dare agli altri un acconto sufficiente per farli aspettare con pazienza se avessimo ridotto le nostre spese. Ma voglio sapere di quanto avresti bisogno se rimanessimo in questa casa? Più di quanto è probabile che riesca a trovare da qualsiasi parte, disse Lydgate con un tono sarcastico alquanto stridulo. Lo infuriava a rendersi conto che la mente di Rosamond si abbandonava a desideri irrealizzabili invece di affrontare sforzi possibili. Perché non vuoi dirmi la somma? Disse Rosamond facendogli mitemente intendere che non gradivi i suoi modi. Beh, fece Lydgate col tono di chi cerca di supporre qualcosa, ci vorrebbero almeno 1.000 sterline per mettermi tranquillo, ma aggiunse in tono reciso, devo pensare a ciò che dovrò fare senza. Non con quella somma. Rosamond non aggiunse altro. Ma il giorno successivo attuò il suo piano di scrivere a Sir Godwin Lydgate. Dal tempo della visita del capitano aveva ricevuto da lui una lettera e una anche da Mrs. Mangan, la sua sorella sposata, in cui gli si facevano le condoglianze per la perdita del bambino e si esprimeva la vaga speranza di rivederla di nuovo a Quellingham. Lydgate le aveva detto che questi atti di cortesia non significavano niente, ma lei era segretamente convinta che qualsiasi riluttanza della famiglia di Lydgate verso di lui era dovuta al suo comportamento freddo e sprezzante. Rispose alle lettere col suo più incantevole modo di fare, sentendosi abbastanza fiduciosa che ne sarebbe venuto un invito specifico, ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Il capitano evidentemente non era un grande amante della penna e Rosamond rifletté che forse le sorelle erano all'estero. Comunque si era giunti a quel momento dell'anno in cui si pensa ai parenti che sono a casa e ad ogni modo Sir Godwin, che le aveva dato un buffetto sotto il mento e l'aveva dichiarata simile a quella famosa bellezza Mrs. Crawley, che gli aveva conquistato il cuore nel 1790, sarebbe stato commosso da qualsiasi appello proveniente da lei e avrebbe trovato piacevole per amor suo comportarsi nel modo dovuto verso il nipote. Rosamond era ingenuamente convinta di saper cosa avrebbe dovuto fare un anziano gentiluomo per impedire che lei dovesse soffrire, e scrisse quella che considerava la più giudiziosa delle lettere, una lettera che avrebbe colpito Sir Goldwyn come prova del suo ottimo buonsenso, facendo notare quanto fosse desiderabile che Tertius lasciasse una città come Middlemarch per una più adatta alle sue capacità, come il carattere antipatico degli abitanti gli avesse impedito un successo in campo professionale e come di conseguenza si trovasse in difficoltà finanziarie, per districarlo dalle quali sarebbero state necessarie 1.000 sterline. Non disse che Tertius era all'oscuro della sua intenzione di scrivere, infatti aveva idea che la sua supposta approvazione della lettera avrebbe sanzionato ciò che lei diceva del suo gran rispetto per lo zio Godwin, il parente che era sempre stato il suo miglior amico. Tale era la forza della tattica che la povera Rosamond ora impiegava nella faccenda. Questo era appunto prima del ricevimento di Capodanno e finora non era ancora giunta nessuna risposta da Sir Godwin. Al mattino di quel giorno Lydgate dovette venire a sapere che Rosamond aveva annullato l'ordine che gli aveva dato a Borthrop Tremble, pensando che fosse necessario che lei si abituasse a poco all'idea di abbandonare la casa di Lowick Gate, e gli vinse la propria riluttanza a parlare di nuovo dell'argomento e quando stavano facendo colazione disse: «Questa mattina cercherò di vedere Tremble e gli dirò di mettere un annuncio per la casa sul Pioneer e sul Trumpet. Se la cosa viene reclamizzata, qualcuno che altrimenti non avrebbe pensato a traslocare potrebbe essere indotto a farlo. In queste città di provincia molte persone continuano a vivere nella propria vecchia casa quando la loro famiglia è troppo grande perché non sanno dove trovarne un'altra. E Tremble sembra che non abbia assolutamente mordente». Rosamond capì che il momento inevitabile era giunto. «Ho dato ordine a Tremble di non fare altre ricerche», disse con una calma attenta che era evidentemente una difesa. Lydgate la fissò con aria di muto sbalordimento. Solo mezz'ora prima le aveva fissato le trecce e parlato col linguaggio infantile dell'affetto, che Rosamond, sebbene non ricambiandolo, accettava come se fosse stata un'immagine serena e stupenda, e di quando in quando miracolosamente mostrava una fossetta al suo devoto fedele. Con tali fibre ancora vibranti, il colpo che gli ricevette non poté suscitare subito un'ira ben decisa, bensì un dolore confuso. Pose il coltello e la forchetta con cui stava affettando e, buttandosi contro lo schienale della sedia, infine disse con un tono di fredda ironia: «Posso chiederti quando e perché l'hai fatto? Quando ho saputo che i Plindale avevano preso una casa, sono passata da lui per dirgli di non far loro cenno della nostra. Nello stesso tempo le ho detto di non far procedere la cosa. Sapevo che sarebbe stato assai offensivo per te se si fosse saputo che volevi lasciare la casa ai mobili, e io ero assai contraria all'operazione. Penso che quella fosse una ragione sufficiente. Allora non è servito a niente che ti dicessi le ragioni impellenti di un altro genere. A nulla che io fossi giunto a una conclusione diversa e in base a questa avessi impartito degli ordini?» disse Lydgate in tono caustico, mentre tuoni e fulmini gli si addensavano sulla fronte e sugli occhi. L'effetto dell'ira di chiunque su Rosamond era sempre stato di farla ritrarre in preda a una fredda avversione e assumere un atteggiamento ancora più calmo, convinta com'era di non essere lei la persona che si comportava in modo sconveniente, qualsiasi cosa potessero fare gli altri. Ribatté: «Penso di aver avuto tutti i diritti di parlare su un argomento che mi riguarda, perlomeno nella misura in cui riguarda te». «Chiaramente, avevi il diritto di parlare, ma soltanto a me. Non avevi il diritto di contrastare segretamente i miei ordini e di trattarmi come se fossi uno stupido», disse Lydgate nello stesso tono di prima. Poi, con un disprezzo ancora maggiore: «È possibile farti capire quali saranno le conseguenze? Serve a qualcosa che ti ripeta perché dobbiamo lasciare questa casa?» «Non è necessario che tu me lo ripeta», disse Rosamond con una voce che le uscì di bocca stillando come delle gocce d'acqua gelida. «Ricordo quello che hai detto. Hai parlato con la stessa veemenza di ora. Ma questo non mi fa cambiare l'idea che dovresti tentare ogni altro mezzo piuttosto che fare un passo così doloroso per me. E quanto a mettere la pubblicità della casa sui giornali, penso che sarebbe assolutamente degradante per te». E mettiamo che io non mi curi di quello che pensi tu, come tu non ti curi di quello che penso io? Puoi farlo, naturalmente, ma credo che avresti fatto bene a dirmi prima che ci sposassimo, che mi avresti messo nella peggiore delle condizioni, piuttosto che rinunciare al tuo volere.